Grazie, grazie, bentornati a Radio Italy da Rocco Carbonaro. Oggi a Radio Italy si parla di cucina cinese, che tanto affascina i palati di tutto il mondo. A spiegarci tutti i segreti della cucina cinese ho con me in collegamento Skype da Roma un esperto, Gianni Catani. Gianni Catani è napoletano e vive da anni a Roma. Ha lavorato per anni alla Microsoft, è regista e fotografo e oggi si occupa professionalmente di cucina cinese attraverso il suo blog Cina in Cucina e il suo canale YouTube. Ciao Gianni, grazie per aver accettato la mia intervista. Grazie a te, per me è un piacere enorme essere con voi. Senti, il tuo canale YouTube è Cina in Cucina anche, giusto? Assolutamente sì, anche la pagina Facebook, così sì, tutto quanto con Cina in Cucina finisce, sì. Complimenti veramente per questo blog che è davvero di ispirazione per le mie ricette cinesi. Grazie, un grosso sforzo anche se c'è dietro molta passione, quindi... Ti ho seguito anche su Repubblica e ultimamente hai partecipato anche a un programma Rai. Sì, vero, sì. Sei famosissimo. Famosissimo? Ancora no. Spero che un giorno si possa apprezzare questo lavoro enorme che sto facendo. In Rai è stato un po', diciamo, una delusione, perché si parlava in sostanza del fatto che dopo 30 anni si mangia ancora in Italia cucina cinese con piatti che costano 3 euro e quindi si pensava ancora che la qualità fosse bassa. Mi sembra ovvio, insomma, pagando 3 euro un piatto, insomma, penso che il piatto non sia di qualità. Quindi questo era un po' il discorso della trasmissione. Questo fa capire che in Italia veramente siamo indietro con la cultura della cucina cinese. Quindi per questo motivo mi sono sbizzarrito in questo progetto. Senti Gianni, ma com'è nata questa passione per la cucina cinese? Ma guarda, io ho sempre cucinato perché ho avuto sempre la possibilità di seguire mia mamma, che è una grandissima cuoca, e quindi mi è sempre piaciuta moltissimo la cucina italiana. E 30 anni fa circa andai a mangiare il primo ristorante cinese qui a Roma e rimasi praticamente innamorato. Quindi per i successivi 10 anni ogni venerdì sera mi sono continuato a recare ai ristoranti cinesi cercando di ricreare quei piatti che mangiavo con scarsissimi risultati, ossia ero venivo fuori dei papponi pazzeschi, però non mi davo pace fino a quando dopo 10 anni ho avuto la fortuna di incontrare uno chef cinese di uno dei miei ristoranti preferiti che l'ho convinto a insegnarmi la cucina cinese, sia quella cosiddetta occidentalizzata ma soprattutto quella che mangiano loro, quindi sono riuscito a farmi insegnare proprio la cucina diciamo originale, quella che mangiano i cinesi alle 7 di sera tra di loro sui tavoli quelli rotondi. Appunto, parlami un po' di questo chef, da quale regione della Cina viene, come l'hai conosciuto? Tutti quanti dall'est della Cina, perché praticamente tutti i chef, la maggior parte degli chef che sono qua in Italia sono tutti quanti dell'est, la maggior parte. Questo, diciamo, è un, tra l'altro un ragazzo abbastanza giovane che parla per nulla italiano, e quindi ci siamo praticamente capiti un po' a gesti e soprattutto a ingredienti, perché lui mi faceva vedere le cose che preparava, io conoscendo gli ingredienti riuscivo perfettamente a capire quello che stava facendo, e quindi tutto questo è venuto fuori circa 6 mesi di lezioni private dove io andavo lì e indicavo il menù, indicavo le cose che volevo fare, e lui pazientemente mi spiegava, mi faceva provare, mi faceva fare le prove sui loro fornelli, con i loro wok, con i loro utensili. Questo per me era una libidine assoluta, perché era proprio il massimo della goduria, insomma. Quindi così ho imparato, e da lì sono andato avanti da solo, studiando, facendo corsi, entrando in contatto con altri cinesi, con altri chef e soprattutto con tantissimi ragazzi che conosco oggi, cinesi, che cucinano a casa la cucina cinese originale, vengono a casa mia e mi insegnano appunto le loro ricette che hanno imparato dalla nonna, dai parenti, eccetera. Quindi molto interessante. Senti, ma tu, essendo italiano, logicamente questo si sa, come viene presa dagli italiani il fatto che un italiano cucina cinese? Sei credibile? Ecco, questa è una bella domanda. Diciamo sì, sono credibile, nel senso che pensavo infatti di avere poca credibilità. In realtà sono credibile proprio perché c'è una conoscenza molto, molto limitata della cucina cinese, quindi il fatto di vedere una persona appassionata della cucina cinese, che cucina cinese, che insegna a cucinare cinese, diventa una cosa molto rara, e quindi siccome è molto rara e siccome, ripeto, c'è poca conoscenza e poca cultura, la gente non può praticamente, come si può dire, avere la controprova, perché non avendo conoscenza prende per oro colato quello che posso dire, quindi ripeto, non c'è molta conoscenza, anzi direi che non c'è conoscenza per niente, quindi faccio un bel effetto, cioè l'effetto di una persona che, diciamo, ha scelto una strada abbastanza particolare e curiosa. Questa è l'impressione che faccio. Senti Gianni, spiegaci un po' come si usa il wok, questa padella cinese, e che cosa si deve fare per non fare attaccare il cibo al fondo. Sì, guarda, intanto va bene, deve essere preparata, ossia il wok praticamente è di ferro più o meno, e quindi va preparata, cioè che vuol dire? Va praticamente messa sul fuoco con l'olio, con un leggerissimo strato di olio, l'olio si brucia e con un'operazione abbastanza lunga e noiosa si prende questa pentola, si brucia con l'olio, poi si passa sotto l'acqua fredda e si mette un'altra volta sul fornello fino a quando non diventa praticamente completamente tutta bruciata, tutta quanta nera, e quindi antiaderente. Per quanto riguarda invece il discorso di non far attaccare il cibo al wok, c'è un trucco che io ho imparato abbastanza recentemente, non conoscevo prima, ossia va messo molto olio nella pentola, quindi bisogna mettere molto olio nella pentola, aspettare che questo olio arrivi a temperatura molto alta, quindi che cominci a fumare, poi l'olio si toglie dalla pentola, la pentola si toglie dal fornello e si lascia un po' raffreddare, dopodiché si mette un'altra volta sul fornello, a quel punto non si attacca più niente. Questo è il trucco cinese. Senti, io all'inizio, quando sono arrivato in Cina, non avevo tutte le pentole, le padelle. Allora, nel wok ci ho fatto di tutto: pasta e fagioli, la pasta, la salsa di pomodoro. Devo dire che per la salsa di pomodoro era una squisitezza, perché con la fiamma alta mi si asciugava subito tutta l'acqua del pomodoro. Però insomma, poi dopo alla fine l'ho buttata pure nuova, perché ho comprata una, ho fatto i soldi, ho comprata una antiaderente, però ogni tanto ci penso, sai. Effettivamente molte persone, poi qui in Italia vendono i wok da 6 euro e divertentissima la cosa, perché in questa padella da 6 euro c'è un foglietto che generalmente viene perso, quindi chi lo compra non trova il foglietto che sta all'interno, e questo foglietto dice che se prima questa pentola non viene completamente immersa nell'acqua, quindi e non viene fatta praticamente bollire l'acqua all'interno per togliere quella patina di plastica che loro mettono in protezione, si rischia di mangiarsi la plastica. Quindi molta gente non sa niente di questa cosa, compra il wok, la mette sul fuoco, ci cucina dentro e si mangia la plastica. Questa è la tradizione. Senti, ma i fornelli però in Italia con quella fiamma bassa penso che non sono adatti al wok, o mi sbaglio? No, questa dice una cosa giustissima, infatti è stata una delle più grosse difficoltà che ho avuto nel cucinare, appunto all'inizio, cucina cinese, perché i fornelli sono molto bassi. Allora io mi sono inventato un attrezzo che ho, diciamo, anche un po' brevettato, che praticamente si mette sulla fiamma e tende a diciamo incanalare la fiamma in altezza, in modo tale che si amplifica moltissimo la potenza della fiamma, e questo permette, diciamo, di avere molto alte. L'hai inventato tu? Sì, l'ho inventato io. Ovviamente ho preso una sai, quelle bacinelle per metterci la frutta di ferro. Praticamente l'ho capovolto, ci ho fatto dei buchi in basso, tondi, e un buco sopra come se fosse un piccolo vulcano, per intenderci. Lo vedi che sei napoletano, inutile. Grande. Il vulcano è molto... e si appoggia questa specie di cucumella sul fornello e si alza praticamente una specie di fiamma ossidrica che fa in modo appunto di avere una fiamma molto molto molto forte. È chiaro che ci vogliono anche i cosiddetti fornelli a due corone, quindi per poter cucinare ad alte temperature. Ultimamente mi sono fatto fare una modifica dal tecnico, mi sono fatto alzare la fiamma, che non si dovrebbe fare, ma l'ho fatto, e quindi c'è una fiamma veramente molto molto alta. No, sei incredibile, vedi, i napoletani con la loro fantasia. Per noi italiani gli ingredienti che non possono mancare in casa sono l'aglio, l'olio d'oliva, il sale, il pepe, il prezzemolo e naturalmente la pasta, possibilmente gli spaghetti. Per i cinesi invece che cosa non può mancare? Tante cose, perché la cucina cinese ha una varietà abbastanza importante di componenti che quasi sempre vengono utilizzati più o meno contemporaneamente. Sono normalmente la salsa di soia chiara e scura, quella chiara serve per insaporire, quella scura serve per colorare, l'olio di sesamo tostato, lo zenzero, la salsa di ostriche, il vino di riso, l'aceto di riso, il cipollotto, il brodo di pollo e soprattutto la fecola di patate che serve come addensante. E penso di non essermi dimenticato più o meno nulla, ma sono questi qua gli ingredienti principali, diciamo, uno deve avere sempre a casa per cucinare cinese. Senti, ma si apre il tuo frigo adesso, la trovo una mozzarella o no? No, non mozzarella. No, come mai? Ho deciso di investire appunto sulle prove tecniche, diciamo, di cucina cinese. Quindi se apri il frigorifero trovi il primo piano completamente pieno di salse, il secondo in questo momento pieno di pasta per fare ravioli e poi tutte verdure di tutti i tipi, perché ovviamente io compro verdure di tutti i tipi possibili e immaginabili per fare prove. No, in questo momento ho deciso di non mangiare cibi italiani ma dedicarmi esclusivamente al cibo cinese. E poi un'altra cosa che mi chiedo, vabbè, a parte che si sa, tu stai a Roma, quindi lì a dove è Piazza Vittorio, come si chiama? Piazza Vittorio, sì. Troverai di tutto, però un italiano che non sta a Roma e che dice va, voglio fare un piatto di Gianni, e che riso deve comprare? Guarda, il riso più indicato è il riso Roma, la qualità Roma. La maggior parte dei cinesi addirittura, ho scoperto che ormai frequento le cucine abitualmente, addirittura non comprano il loro riso, quello classico profumato, jasmine che tutti quanti utilizzano, ma comprano le buste proprio di riso Roma, perché secondo loro, poi sono scuole di pensiero eccetera, secondo loro è più indicato, è quello che regge meglio la cottura, sia la cottura al bollore sia la cottura al salto. Quindi diciamo il riso Roma è quello più indicato. Ovviamente va prima sciacquato, ma il trucco è di non sciacquarlo, cioè di non fare in modo che sia completamente trasparente l'acqua, perché altrimenti si rischia che il riso si spezzi. Il riso non si deve spezzare, il riso deve togliersi tutta la parte, diciamo, della come si chiama, dell'amido, se non mi viene al termine, dell'amido, però non deve scomparire completamente, deve rimanerci sempre un po', perché altrimenti si rischia che poi quando si va a saltare si spezzino i chicchi, che è chiaramente una cosa non accettabile. Poi un'altra cosa, gli italiani, noi sappiamo, mia mamma il riso lo cucina in tanta acqua, lo fa bollire come fa la pasta, invece qua poi i cinesi usano quei bollitori, quelle pentole adatte proprio per il riso. Sì. In Italia ci sono, si trovano? Sì, io per anni ho usato sempre la tecnica, diciamo, di farlo sul fornello con un 2 bicchieri di riso e 3 bicchieri di acqua. Questa era, diciamo, la formula, quindi sono essere 2 bicchieri colmi di riso e 3 di acqua, quindi 1,5 per ogni bicchiere di riso. E si faceva, diciamo così, poi il vapore all'interno e si riusciva a ottenere, diciamo, un riso al vapore molto ben, diciamo, composto. Poi ho scoperto il bollitore, dico il bollitore, diciamo, tutto più semplice, perché si mette tutto là dentro, si chiude e anche se lo dimentica acceso non si sfoce. Questo è molto interessante come processo. Senti, io poi un'altra cosa, quando cucino nella carne, quando faccio il ragù, se non trovo il vino ci metto quel vino cinese e a volte ci metto pure un goccio di salsa di soia e devo dire che il risultato non è male, e quindi faccio una specie di fusion. Tu quando cucini ti capita mai di fare una pizza con germogli di soia? No, io quando cucino italiano, che intanto mio figlio mi dice che mio figlio è esausto, cioè mi piace molto la cucina cinese, intanto mi dice papà, ma quando mangiamo italiano? E io ogni tanto appunto cuciniamo i classici piatti, mi piace molto la carbonara, mi piacciono molto tutte queste cose tipicamente regionali, e, però no, mi attengo rigidamente alla ricetta, senza andare, sì, poi sono ingredienti, invento, però mi piace molto diciamo così, fare le cose come dovrebbero essere fatte, proprio perché sono un po' con deformazione professionale, quindi devo fare la carbonara e non ho gli ingredienti per farla, faccio un'altra cosa. Sappiamo che i cinesi amano la cucina piccante e a Roma ci sono dei ristoranti dove è possibile mangiare cucina cinese molto hot, molto piccante? Sì, c'è un ristorante proprio della cucina del Sichuan che fa cucina piccantissima, che sta a San Giovanni, e sono praticamente padre, madre e figlia. Insomma, a livello a gestione familiare, e chi è che cucina? Il proprietario è quello che cucina, non c'è neanche, quindi lui è proprietario e cuoco, perché non ha voluto neanche mettere all'interno un cuoco, perché dice che è troppo complicato spiegargli i tipi di cucina. Lui praticamente cucina, ha proprio un menù per gli italiani e poi un menù per i cinesi con cucina del Sichuan. Tu vai là dentro e ti prendi queste ricette piccantissime e sono addirittura di un potente quasi immangiabile. Infatti gli italiani dentro non ci mettono piede perché non riescono a mangiare quel tipo di cibo così piccante. A me piace moltissimo, ma capisco che veramente in certi casi diventa immangiabile. E la cucina cinese in Italia è autentica? No, assolutamente no. Quella viene definita occidentalizzata, cioè praticamente una cucina cinese inventata dai cinesi per gli italiani. Mm-hmm. Quindi piatti tipici come il pollo alle mandorle, il riso alla cantonese, il gelato fritto e la Nutella fritta, sono tutte cose che sono inventate i cinesi, che piacciono molto agli italiani. Gli italiani pensano che sia questa la cucina cinese, prendono sempre gli stessi piatti. Mi diceva addirittura un amico, uno chef di un ristorante, diceva che praticamente ogni volta che un italiano entra in un ristorante cinese e prende, non so, 5 piatti, da quel giorno prenderà sempre quei 5 piatti, non cambierà mai. Quindi questo per far capire che veramente siamo fermi a 30 anni fa. Infatti in Rai, la trasmissione lì fu proprio a dire questo, cioè che dopo 30 anni continuiamo ancora a mangiare l'isola cantonese, il pollo alle mandorle, i voltini di primavera e gelato fritto. Gelato fritto. Gianni, e come si fa sto gelato fritto? Praticamente una palla di gelato che viene avvolta dai toast, la parte bianca del toast, messa nel surgelatore, tolta dal surgelatore, e a quel punto ci si mette sopra una pastella ricoperta da, questa è la mia interpretazione, ricoperta da i cornflakes briciolati, si mette a friggere, poi si apre a metà e ci si passa sopra quella specie di cremina di cioccolato, viene qualcosa di veramente pazzesco. Ma c'è ancora quindi questo interesse per il ristorante cinese, che di moda andavano più che altro negli anni 90, erano pieni, ma ancora sono rimasti o si sono trasformati in ristoranti giapponesi? Si sono trasformati in ristoranti praticamente cino-giapponesi, con la formula all you can eat, dove tu con 18 euro mangi finché non ti senti male, e io siccome mi diverto molto a osservare la gente che mangia, perché poi mi piace molto guardare, e vedo che nei tavoli la gente mangia al 50% cucina giapponese e cucina cinese, quindi mangiano sushi e piatti cinesi, questo è diciamo la media. Quindi i ristoranti cinesi, la maggior parte dei ristoranti cinesi sono trasformati in ristoranti giapponesi o you can eat, i veri ristoranti cinesi sono rimasti ristoranti cinesi e basta, quindi sono rimasti appunto tradizionali. E tu hai già un ristorante o pensi di aprirne uno? Non saprei. Sì, la seconda, io adesso diciamo fra 2 mesi circa, 2 mesi e mezzo sono in contatto, sto organizzando praticamente con un importante chef qui a Roma, con il quale sto appunto collaborando per mettere in piedi un progetto di, diciamo, di ristorazione, proprio perché sono invogliato a raccontare, cioè far diventare il mio progetto web culturale, farlo diventare anche un progetto poi, diciamo, tipicamente poi culinario dal punto di vista pratico, quindi raccontare, cercare di raccontare degli eventi e con delle iniziative la vera cucina cinese agli italiani, quindi fargli apprezzare quelle che sono le vere ricette. E ho conosciuto questo bravissimo chef cinese che è uno dei pochi qui a Roma a conoscere 5 cucine diverse, quindi 5 regioni, e quindi è in grado di spaziare da una cucina all'altra in maniera molto, molto interessante. E c'è una cosa che non riesco a mangiare in Cina, che è il chou tofu, che è il tofu puzzolente. Sì, conosco. Sì, ma tu come lo tratti questo essere? Guarda, qui si trova raramente intanto, quindi non è facile trovarlo, anche perché c'è tutto un procedimento che mi hanno spiegato, insomma, abbastanza complicato. Sì, a me non fa impazzire, diciamo che a me piace molto il tofu, è veramente, tra l'altro è molto leggero e mi sono abituato anche a mangiarlo in diversi modi. Mi piace molto il tofu affumicato, no, il tofu quello cosiddetto puzzolente, ho provato, mi hanno fatto assaggiare poi tanto quello originale fatto dai cinesi, e devo dire che insomma non mi piace, non ce la faccio, insomma non ho superato diciamo ancora bene il coriandolo ancora non riesco totalmente a farmelo piacere, insomma. No, quelli lì a carnevale noi li buttiamo direttamente. Neanche io, è una cosa, non lo sopporto quell'odore. Sì, sembra un diversivo, insomma, ancora non riesco a, perché condiziona troppo il sapore del piatto. Non è come il basilico nostro, no? Che tu dici prendi il basilico sulla pizza è qualcosa di pazzesco, no? Invece il coriandolo su una zuppa, mamma, la zuppa sa di coriandolo, insomma, non senti gli altri sapori. Zitto, non lo facciamo sentire, cioè, che qua ci ascoltano, sono tutti gli studenti che adesso parlano, ormai parlano tutti italiano in Cina, sì. È una cosa incredibile. Amici di Radio Italy, vi ricordo che sono con Gianni Catani, esperto di cucina cinese, e prima di salutarci, Gianni, mi daresti una ricetta? La ricetta, diciamo quella che si può raccontare più facilmente è il banale ma non banale riso saltato, che sta alla base, diciamo, di tutte le cotture del riso, insomma, che quindi cucinare il riso saltato sembra semplice, ma è molto complicato, perché il riso va bollito, va messo poi in frigorifero per l'intera nottata, in modo tale che poi i chicchi si possano sgranare, si possano separare. E a quel punto c'è un procedimento che deve essere fatto molto rapido, nel quale si mette l'uovo nel wok caldo, quindi poco olio, il wok molto caldo, si mette l'uovo e subito dopo pochissimi secondi si butta il riso, in modo tale che il riso si vada ad amalgamare rapidamente con l'uovo, sempre con temperature molto alte, si salta rapidamente, poi si aggiunge il sale, si aggiunge un goccettino di vino di riso e a fine cottura, quando lo stiamo per togliere, si mette ancora un po' di uovo, in modo tale che prenda quel colore giallo che piace molto agli chef cinesi. Dopodiché si mette un po' di brodo di pollo e si toglie. Questo qua, diciamo, è la ricetta del cosiddetto riso saltato, che è molto importante, che sembra semplice ma invece è complicato, perché il riso deve saltare nel wok, non si deve attaccare, e quindi questo, diciamo, a forza di farlo uno impara a non fare i papponi diciamo di risotto. Beh, io vorrei suggerire alla signora Maria che ci sta ascoltando di lasciar stare sto wok, perché sennò se fa e prende quella bella pentola che gli ha comprato alla coppa antiaderente, dove si fa l'uovo fritto e là, sì, perché sennò stuovano l'uovo e il riso, non oso immaginare che combinano. Sì, chiaramente uno può fare anche l'uovo a parte prima, lo toglie e poi può saltare il riso con l'olio e poi mischia, insomma, questo è un classico. Però se uno lo vuole fare proprio originale, perché gli piace quel sapore di, diciamo, di come si dice, di affumicato che c'è il riso insieme all'uovo, insomma, è qualcosa che secondo me è insuperabile come gusto, insomma, a prescindere da tutto quello che ci si può mettere dopo, ma il riso saltato fatto bene è qualcosa, con l'erba cipollina, col cipollotto alla fine messo sopra, è qualcosa di, se fatto bene, di eccezionale. Shama shan ya jian shama cui shu bian da ma bu xin chi. Senti, carissimo Gianni, prima di lasciarci voglio chiederti un'ultima cosa. I tuoi progetti professionali per il 2015? Sì, io ho deciso, dopo mi sto per avvicinare ai 50 anni, ho deciso di fare lo chef, cioè, quindi il mio sogno è quello di fare per professione, diciamo, lo chef in tutti i sensi, quindi sia dal punto di vista della formazione, che è una cosa che faccio da 30 anni, quindi io mi occupo di formazione, mi piace trasferire le nozioni agli altri, lo faccio con amore, eccetera. Quindi lo chef inteso appunto come corsi di formazione, come ristorazione, come show cooking, come curatore, diciamo, di contenuti web, insomma, quindi dallo chef da tutti quanti i punti di vista, quindi quello che proprio è lo studio della cultura della cucina cinese, che è una cosa che a me veramente dà delle emozioni pazzesche. Quando vado in cucina e vado a osservare questi chef, perché io due volte a settimana sto facendo facendo insegnare la cucina cinese dagli chef nella loro cucina, quando sono lì che guardo proprio mi sento male, è una cosa che mi fa proprio impazzire, non posso spiegarla, perché è una sensazione bellissima, cioè di voler stare lì per 12 ore senza andarsene, è qualcosa di inspiegabile, è veramente una passione enorme. E poi immagino che tra i tuoi progetti c'è quello di venire in Cina. Assolutamente sì, io al più presto, io pensavo quest'anno, ma non ce l'ho fatta perché qua c'è un casino purtroppo con i visti, perché tu devi specificare tutta una serie di cose, quindi è complicatissimo, ma sicuramente io potevo a luglio, ma lui mi hanno detto che il clima non è molto, dove volevo andare io non era molto, diciamo così, consigliato, quindi sicuramente all'inizio dell'anno prossimo verrò in Cina e voglio fare tutta la zona di Pechino e la zona, diciamo, poi andarmi nella regione del Sichuan, perché ho visto delle cose pazzesche e vorrei andare a studiare, perché veramente mi interessa tantissimo e proprio mi eccita l'idea, insomma, questo qua è l'obiettivo. E poi, visto che fai regista, io direi anche di farci un video, casomai, la prossima volta, dove tu cucini. Là io cucino qua. Questo è il prezzo, io quando mi muovo con 4-5 macchine fotografiche da presa, quindi cerco di portare via tutto, anche perché poi se uno va in Cina io mi farei un viaggio alimentare, non mi farei un viaggio, diciamo così, culturale, turistico. A me mi interessa andare a vedere la gente, a me piace andare a vedere le persone, guardarle in faccia, guardare quello che fanno, quello che mangiano, quello che toccano e quello che proprio sono le persone, quindi questo mi piacerebbe raccontarlo chiaramente con delle immagini. Faccio il fotografo e faccio regia, qual è occasione migliore del non raccontarlo con un video o con delle fotografie? Penso che lì, anche se vai bendato e scatti, prendi a caso, penso che comunque fai dei capolavori di ripresa, insomma. Perfetto. Senti, prima di lasciarci, vorresti dare di nuovo ancora tutti i tuoi dati, cose, il tuo sito, il tuo blog, per chi vuole visitarti? Sì, allora dunque, io a parte il mio sito che è www.cinaincucina.it, il mio canale, diciamo, YouTube, che è youtube.com/cinaincucina, Facebook, la pagina Facebook è appunto facebook.com/cinaincucina, poi sono anche su Google Plus, sono su Pinterest, su LinkedIn, quindi sono su tutti quanti i social, quindi in ogni caso se uno su Google scrive Cinaincucina, oppure ha la possibilità di scrivere qualsiasi tipo di piatto di cucina cinese, normalmente appaio io, perché ho la fortuna di essere, questa è solo fortuna, diciamo, di essere l'unico in Italia che si occupa di questa cucina cinese, di cultura della cucina cinese in italiano, e questo, diciamo, mi fa gioco, perché poi tutto quanto è abbastanza riconducibile o al sito della Repubblica dove sono presente, oppure ai miei collegamenti dei social, dove appunto sono presente appunto con contenuti sia video sia fotografici che di informazioni. Auguri ancora per la tua attività e grazie mille per questa chiacchierata a Radio Italy da Shanghai. È stata una bellissima esperienza, ti ringrazio tantissimo, complimenti per quello che fai, per il tuo lavoro, soprattutto per questo, se ho sentito parlare cinese, insomma, veramente complimenti, grazie di tutto. Sì, sì. Grazie. Ciao Gianni, grazie. Un abbraccio. Grazie ancora, salutami la Cina. Senz'altro. Finisce così la puntata dedicata alla cucina cinese. e ringrazio ancora Gianni per questa chiacchierata. Se volete potete aggiungermi sul mio WhatsApp, è 0086 156 185 25 0035. Ciao a tutti da Rocco Carbonaro. Today I'm dreaming.